Amen, amen. Ok, andiamo alla parola. Io voglio leggervi oggi una delle storie più straordinarie della Bibbia. E questa storia ha dello straordinario perché c'è una richiesta che viene fatta da un uomo di Dio, che è una richiesta fuori dall'ordinario, una richiesta stravagante, una richiesta straordinaria. E io voglio leggere con voi questa storia e vorrei mettere accento su questa richiesta che Eliseo fa ad Elia. Leggiamo da 2 Re, capitolo 2, versetto 1. C'è scritto questo, potete seguirlo sullo schermo e leggere con me. Quando il Signore volle rapire in cielo Elia, in un turbine, Elia se ne andò da Gilgal con Eliseo. Ora, Eliseo era un discepolo di Elia, ok? Quindi per chi non conosce la storia, Elia è un grande profeta di Dio ed Eliseo è il suo discepolo profeta. Versetto 2 dice, Elia disse a Eliseo, «Fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda fino a Betel». Ma Eliseo rispose, «Com'è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò». Ma Eliseo rispose, «Così scesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero, «Sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore?» Egli rispose, «Sì, lo so, tacete». Elia gli disse, «Eliseo, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda a Gerico». Quelli rispose, «Com'è vero che il Signore vive, che tu vivi, io non ti lascerò». Così se ne andarono a Gerico. I discepoli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero, «Sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore?» E gli rispose, «Sì, lo so, tacete». Sta perdendo la pazienza Eliseo. Ed Elia gli disse, «Fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose, «Com'è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò». E proseguirono il cammino insieme. 50 discepoli dei profeti andarono dietro a loro e si fermarono di fronte al Giordano, da lontano, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, lo arrotolò e percosse le acque, le quali si divisero in due, così attraversarono il fiume a piedi asciutti. Quando furono passati, Elia disse a Eliseo, chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto. Eliseo lo vide e si mise a gridare, padre mio, carro e cavalleria di Israele. Eliseo vuole far sapere a Elia, ti sto guardando, ti sto vedendo. Ti ricordi la promessa che mi hai fatto, che se io riuscirò a guardarti otterrò la doppia porzione dello Spirito, allora io ti chiamo e ti faccio sapere che ti sto ancora guardando. Poi non lo vide più e afferrate le proprie vesti, le strappò in due pezzi, raccolse il mantello che era caduto di dosso a Elia, tornò indietro e si fermò sulla riva del Giordano. E qui c'è il test, no? Vediamo. Ha ottenuto effettivamente la doppia porzione. Preso il mantello che era caduto di dosso a Elia, percosse le acque, esattamente come Elia aveva fatto, e disse, dov'è il Signore, Dio d'Elia? Quando anche egli ebbe percorso le acque, queste si divisero in due ed Eliseo passò. Eliseo aveva ottenuto ciò che aveva richiesto ad Elia. E qual è la sua domanda? Qual è la sua richiesta stravagante, straordinaria, fuori dal normale, sorprendente? La richiesta di Eliseo ad Elia è che mi sia data la doppia parte del tuo spirito, la doppia parte della tua potenza, la doppia parte dell'autorità, la doppia parte dell'unzione, la doppia parte di quella guida e quell'unzione, quella forza nello Spirito Santo per fare miracoli. Ora ci sono due interpretazioni che si leggono nei vari libri e nei commentari biblici. E la prima dice che di fatto Eliseo non ha ottenuto il doppio spirito, cioè una porzione doppia rispetto a quello che aveva Elia, ma semplicemente Eliseo ha fatto riferimento a quello che c'è scritto in Deuteronomio, al capitolo, se non ricordo male, 21, che dice che il primogenito è meritevole di una eredità doppia rispetto all'eredità degli altri figli. Quindi, interpretando in questa maniera, si pensa che quello che Eliseo ha chiesto era non il doppio spirito di Elia, ma semplicemente una doppia parte rispetto a quello che gli spettava normalmente, essendo figlio spirituale di Elia. C'è chiaramente la controparte che invece dice: no, Eliseo ha chiesto doppio spirito, la doppia porzione di Elia, e l'ha ottenuta, cioè ha avuto ancora più potenza, ha avuto ancora più forza, ha avuto ancora più autorità di Elia stesso, e questo è deducibile dai segni miracolosi che Eliseo ha fatto, perché Eliseo ha operato miracoli in una quantità e anche dei miracoli in qualità, se vogliamo, più grande rispetto a Elia, Eliseo rispetto a Elia. Ora, qualsiasi sia l'interpretazione che vogliamo dare, di fatto quello che Eliseo chiede è di più. Eliseo dice: io voglio di più, io voglio una misura maggiore, io voglio un incremento, io voglio una crescita. Non voglio quello che ho sperimentato finora, io non mi accontento di quella forza e di quella potenza che ho potuto assaporare finora, io voglio una misura doppia, una misura maggiore, io voglio uno sviluppo, un incremento, io voglio crescita. E se c'è una visione che io ho per me, per la nostra Chiesa, e che il Signore ci porti dalla gloria presente alla gloria successiva che Lui ha in mente per noi, che Lui ci porti dallo stato attuale a una condizione di maggiore fede, di maggiore potenza, di maggiore consacrazione, di maggiore guida profetica nelle nostre vite. Questa è la mia visione, credo che sia la visione di ogni pastore, e questo ha poco conto, perché non è tanto importante quanto io possa sognare per questa Chiesa. E quando dico Chiesa, logicamente non mi riferisco a una folla anonima, ma dico te, dico me, dico Antonio, dico Rosalia, dico Elisa, sono andato sulla linea della stessa famiglia, ma lo dico per Sabina, lo dico per Mario, lo dico per Lucia, lo dico per Valerio, lo dico per ognuno di voi che siete in questa stanza. Io sogno che voi possiate essere più pieni di Spirito Santo, più potenziati da Dio, e con un incremento di fede, un incremento di intimità con Dio, un incremento di forza e di autorità spirituale per combattere in questa vita e vincere. Però questo è il mio sogno. Ciò che vorrei che toccasse il tuo cuore e che ti lasciasse andare stamattina a casa con una motivazione, con una missione, con un desiderio ed una fame, e comprendere che questa visione, che quello che ti ho appena detto, è quello che Dio desidera per te. Dio è il primo a desiderare che tu cresca. Dio è il primo che desidera che tu passi da quella che è la condizione attuale a una condizione di doppia potenza, di incremento. È bello vedere in questa storia che Dio risponde, Dio interviene, Dio dà ad Eliseo qualcosa che Elia stesso definisce una cosa difficile. Elia, che ha fatto miracoli straordinari, dici no, quello che tu chiedi mi sorprende veramente. Cioè, ne ha visto di tutti i colori. Ha visto il fuoco scendere dal cielo, ha visto l'abbondanza di Dio manifestarsi con miracoli straordinari alla richiesta di Eliseo. Dice, questa è una cosa difficile. Caspita, questa la vedo dura. Eppure, per quanto impossibile, per quanto abbia usato Eliseo, io vedo la grazia, l'amore e il desiderio di Dio di darci quando noi desideriamo di più, quel di più. E non lo capiamo solo da questi versi. C'è un verso che conoscete molto bene, che si trova in 2 Corinzi al capitolo 3, versetto 17, che vorrei che noi leggessimo con attenzione, che dice, ora il Signore è lo Spirito. E dove c'è lo Spirito, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine. Tu, io, abbiamo la possibilità di essere trasformati nella stessa immagine di Cristo Gesù, e aggiunge di gloria in gloria, di gloria in gloria, in gloria, in gloria, in gloria, in gloria. È qualcosa che va avanti, è una trasformazione, è un incremento, è un'azione che il Signore svolge nella vita dei credenti, perché Lui ama incrementare la porzione della sua pienezza in noi, Lui ama incrementare la sua immagine in noi, affinché possiamo essere ancora più simili a Lui, ancora più in autorità. La vita del credente non è destinata a rimanere in un piattume, in una condizione che rimane ferma a quella bellissima esperienza della nuova nascita. Bellissima quella. Quando Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce ed è stato tutto nuovo, tutto straordinario. Dio è bello perché ci chiama a vivere una vita che è in costante crescita e in costante incremento. Questi versi ci stanno dicendo che l'azione del Signore è la trasformazione. L'azione che lo Spirito Santo fa è la trasformazione. Come avviene? La successione è questa. Se avete ancora davanti i versi di questo bellissimo brano in 2 Corinzi 3, noi comprendiamo che lo Spirito Santo porta libertà. Lo Spirito Santo rompe le catene. Lo Spirito Santo, quello che fa è prima di tutto liberarci dal peccato, dal dominio di Satana. Noi diventiamo liberi dal dominatore che ci ha dominati fino a prima che noi conoscessimo il Signore. Lo Spirito Santo porta a libertà. La libertà porta a relazione. A viso scoperto abbiamo la possibilità di contemplare la gloria di Dio. La libertà, non più schiavi del peccato, non più dominati da Satana, ci porta a una relazione, a una connessione possibile grazie al sangue versato di Cristo Gesù che stamattina noi celebriamo. Quel sacrificio che Gesù ha fatto ci ha dato libertà, ma non solo, ci ha dato l'accesso alla presenza di Dio. E nel contemplare il volto di Cristo, quindi libertà, connessione, relazione, e poi questa connessione porta trasformazione, cambiamento, di gloria in gloria, di gloria in gloria. Dio vuole che tu passi da una gloria precedente a una gloria successiva. Come sarebbe la tua vita con una porzione di fede maggiore rispetto a quella che hai oggi? Come sarebbe il tuo anno in una porzione maggiore della presenza dello Spirito Santo manifesto nella tua vita, non solo attraverso i doni, ma il frutto di amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, mansuetudine, autocontrollo. Cosa sarebbe, cosa diventerebbe quest'anno per te se la porzione della presenza di Dio nella tua vita ti fosse raddoppiata? Io credo una vita migliore, un anno migliore. E sapete cosa? Dio vuole questo per te. Dio lo vuole. Perché altrimenti non troveremmo questo verso e tanti altri versi, quali quelli che ci parlano del perfezionamento dei santi, della crescita alla quale noi siamo destinati, alla gara, alla conquista, ai territori, alle vittorie. Dio ha tutte queste promesse per noi perché Lui desidera che noi passiamo dalla gloria del 2018 alla gloria del 2019 per poi prepararci alla gloria del 2020. Lui vuole questo per te. Come lo puoi abbracciare però? Beh, prima di tutto è interessante vedere che Elia dice a Eliseo: otterrai questa richiesta se riesci a vedermi, se continui ad avere la grazia, la forza di vedermi. Ora io immagino Eliseo che si sia concentrato su Elia. Carri, fuoco, turbine, e lui non abbia perso l'attenzione su quella immagine che veniva sfocata e che veniva, no, poteva essere distratta da tutto quello che accadeva attorno ad Elia. Eliseo è rimasto concentrato con gli occhi fissi su Elia perché ha detto: io non posso perdere questa occasione. Io guarderò ad Elia fin quando posso per ottenere quello che ho richiesto. E c'è un verso che conoscete altrettanto bene in Ebrei 12, dal versetto 1, che dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, ascoltate ora, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Vedete di nuovo? Gesù, tu guardi Lui e Lui ti dà la fede, e non solo, se continui a guardarlo, Lui la perfeziona, la fa crescere, ne dà una misura maggiore e ti porta di gloria in gloria. Come puoi passare dalla gloria attuale alla gloria successiva? Fissando lo sguardo su Gesù. Guardando e concentrandoti su di Lui, perché le circostanze vengono, le situazioni, le minacce, le contese, tutto viene ed è un turbine ed è tutto lì per distrarti, ma la tua concentrazione su Cristo e chiederti: cosa farebbe Gesù in questo? Cosa vorrebbe Lui che io dicessi? Cosa vorrebbe Lui che io facessi? Cosa insegna Lui a riguardo? Il tuo guardare fisso con lo sguardo su Gesù fa crescere la tua fede, aumenta la tua porzione di autorità spirituale e ti porta di gloria in gloria. Che cos'è la gloria? La gloria è la bellezza. La gloria è lo splendore. Noi tutti utilizziamo, sembra un termine, no, religioso, spirituale, però avete mai sentito qualcuno dire: che momento di gloria? Mondiali del 2006, finale, Francia-Italia, rigori, vince l'Italia. Che momento di gloria! Che momento soddisfacente, che momento meraviglioso. Questa è la gloria. Anche l'82, per chi se lo ricorda, naturalmente. Io sono nato nell'81, come sono giovane, avevo solo un anno. 82, quel momento, quel gol, quell'urlo, quella corsa, che momento di gloria. Sapete, Dio fa il tifo per noi, i testimoni fanno il tifo per noi affinché noi passiamo di gloria in gloria, di momento di gloria in momento in gloria, in una crescita, in un incremento, perché Dio ci vuole chiamare a una statura maggiore, esattamente come ha fatto per Eliseo. Quindi come otteniamo questo incremento fissando lo sguardo su Gesù, ma anche chiedendo. Elia dice ad Eliseo, chiedi. Elia dice ad Eliseo, chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto. Chiedi, chiedi, dice Elia. Ed Eliseo non perde occasione. Gesù in Giovanni al capitolo 16, 24, ai suoi discepoli dice, fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Luca 11, 13, Gesù dice, parlando della preghiera, se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. A coloro che glielo chiedono. Chiedi. Chiedi, prega. Vedete con quanta forza ve lo sto dicendo? Perché io credo che non stiamo ottenendo ancora tante cose nella nostra vita. Io credo che stiamo vivendo dei momenti di ansia, di stress, di turbine, di difficoltà e stiamo cercando le nostre soluzioni e stiamo trovando il modo per uscire da quel come chiamarlo, labirinto nel quale ci ritroviamo e Dio ci dice, chiedi! Chiedi cosa sarebbe la tua vita se incominciassi a impugnare la possibilità di stare alla sua presenza, contemplare la sua gloria, vivere la relazione che porta trasformazione. Io sono convinto che ci sono tante cose nella mia vita che io non ho perché non chiedo. Ve lo posso dire con sincerità. Io vorrei essere qui e dirvi, avete un pastore che sa pregare, che sa inginocchiarsi e sa intercedere. Ma quando ho letto questi versi, il Signore ha toccato e ha parlato prima di tutto il mio cuore, ha detto, Mirko, chiedi, chiedi, basta stressarti, basta pensare, basta trovare soluzioni, basta ragionare, basta a cercare nella tua mente, nella tua autorità, nella tua esperienza, a scavare come puoi uscirne, come puoi migliorare, come puoi far avanzare la Chiesa. Chiedi! E lì ho detto, Signore, io ti chiedo. Un anno di abbondanza, un anno di gloria, un anno di avanzamento, un anno di porzione doppia. Io chiedo più autorità, io prego più unzione, io prego più presenza, io prego più intimità con te. E sono andato avanti, io chiedo quello che è impossibile oggi ai nostri occhi perché tu sei il Dio dell'impossibile. Chiedi e ti sarà dato. Vuoi una porzione doppia? Chiedila. E sì, certo, che il Dio che ti chiede di chiedere insisterà affinché tu chieda sempre di più, affinché tu possa imparare la lezione del chiedere da colui che insegna la lezione del chiedere. Perché lui non insegna delle cose per poi non farcele fare. Lui le insegna affinché noi le possiamo fare, rifare, acquisire e far diventare stile di vita. E poi a volte lui risponde, perché il suo obiettivo non è darti quello che tu chiedi, ma molto spesso insegnarti a chiedere, affinché tu possa ottenere quello che chiedi e molto altro, perché lui vuole darti molto di più di quello che stai chiedendo. Chiedi, fissa lo sguardo su Gesù e chiedi. E ora viene la mia parte migliore, ok? Perché nel riflettere su questo messaggio, qui è il Signore che mi ha parlato in una maniera profonda e ha detto, sai come si passa di gloria in gloria? E questa cosa non piacerà alla Chiesa di sentirlo e non piace neanche a te? Sai come si passa da una condizione, da un livello al livello successivo? Sai come avviene l'incremento nella vita di un credente? Te lo mostro. E il Signore mi ha portato in Giacomo 1, versetto 2, dove c'è scritto, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo Quindi perché dovreste considerare una grande gioia le prove svariate? Per questa ragione, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché, ascoltate ora, siate perfetti e completi, di nulla mancanti. La prova non è una disgrazia. La prova non è una maledizione. La prova non è la conferma del fatto che Dio non mi vede più, non ha interesse per me e non mi ama. Tutto il contrario. La prova concessa, perché concessa da Dio, è lì per produrre perfezione, completezza e permetterci di non essere più di nulla mancanti. A volte io mi vedo, no, come il formaggino dell'Emmental, quello è quello svizzero che c'ha i buchi, no? Mi vedo molto incompleto, ci sono delle cose che sono belle, complete, solide, e poi arrivano quei momenti dove trovo tutta la mia incompletezza, tutta la mia deficienza, tutta la mia mancanza, la mia inabilità. E vedo che proprio Dio mi porta a vedere il buco, per poi riconoscere versi come questi che mi parlano del fatto che Lui vuole invece riempire quel buco e rendermi solido e forte in Lui, e sta permettendo proprio quella prova affinché l'incremento avvenga. La prova non è una disgrazia, è in realtà proprio il coronamento di un percorso che Dio vuole farti fare. Tutti noi siamo andati a scuola guida e tutti noi abbiamo fatto l'esame di guida, vero? Non è che noi abbiamo seguito le lezioni, abbiamo fatto tutti i quiz e poi arrivati alla prova abbiamo detto no, non mi va, ah che brutta cosa, Dio me ne liberi, non voglio fare la prova. No, in realtà noi siamo andati, per quanto preoccupati e per quanto in ansia, siamo andati a quell'appuntamento con più attenzione, con più rigore, con più puntualità e con più aspettativa di tutti gli altri appuntamenti precedenti. Perché? Perché la prova sarebbe stato l'incoronamento per ottenere la patente. Questo è quello che la prova fa. E se la prova ti trova preparato, ti porta a un livello successivo. Se la prova nella tua vita ti ritrova pronto a pregare quanto non hai mai pregato prima, la prova ti trova pronto a digiunare, ad armarti delle armi spirituali, la prova ti trova pronto a fissare lo sguardo su Gesù, a chiedere, a vivere la preghiera, quando la prova viene e tu vivi tutto questo, cosa avviene? Avviene un'elevazione. Superata la prova, tu conquisti un territorio che prima non avevi, quel buco si riempie di più e la tua vita è più solida che mai. È questo l'incremento che Dio vuole darti. E in questo anno avrai delle prove perché Dio ti ama. Avrai delle prove perché Dio vuole perfezionarti. Avrai delle prove perché Dio vuole renderti più capace di ministrare ad altri la testimonianza che sai dire molto bene a parole oggi, ma hai bisogno di quell'esperienza, di quella prova per solidificare quella tua conoscenza e trasmetterla con potenza agli altri. La prova non è una maledizione, la prova è un'opportunità che Dio ti dà per splendere di una gloria maggiore che parla di Lui e che porterà altre persone ad avvicinarsi a Lui. Se affronti quella prova non come il diavolo vuole fartela affrontare, non cadendo nella carnalità, non buttandoti giù nel baratro più totale, nelle affermazioni in più menzoniere, nella rabbia, nel rancore, nello scalcitare a destra e a sinistra, ma se fai di quella prova un'occasione dove ti svegli e dici: questo è il mio appuntamento, oggi è il giorno dell'esame, oggi io tornerò a casa con una patente, e fai della prova una opportunità di far uscire il meglio di te, in preghiera, nella lettura, nel digiuno, nel fare squadra con altri credenti, coinvolgerli nella tua vita, aprire il tuo cuore, essere confidente e aperto su quello che stai attraversando, sul chiedere aiuto. Se fai questo, vieni promosso a un livello superiore, perché Dio non è che ti fa passare la prova, dice: oh, ce l'ho fatta, sono di nuovo dovero. No, se ce l'hai fatta e ce l'hai fatta veramente con Dio, sei a un livello superiore e Dio si servirà di te grandemente. Vuoi una doppia porzione quest'anno? Fissa lo sguardo su Gesù. Vuoi una doppia porzione quest'anno? Chiedi. Vuoi una porzione doppia quest'anno? Abbraccia la prova e rendila una condizione nella quale cresci di fede in fede, di gloria in gloria. Oggi abbiamo l'opportunità di vivere quello che forse è uno dei momenti più intimi alla presenza di Dio, ricordando quello che Lui ha fatto, ricordando che Lui è morto, si è fatto crocifiggere, ha sparso il suo sangue affinché noi fossimo liberi dal peccato e per darci l'accesso al Padre. E in questo momento, mentre celebriamo la cena del Signore, abbiamo la possibilità di contemplare il suo volto, di contemplare la sua gloria ed essere trasformati di gloria in gloria. Com'è che si viene trasformati? L'ho già detto, fissando lo sguardo su di Lui, chiedendo, abbracciando la prova. E forse sei qui questa mattina e sei nel bel mezzo di una prova. Oggi è l'occasione per rivedere e riconsiderare e cambiare totalmente prospettiva su quella prova, abbracciarla e viverla con il Signore, perché Lui ti farà uscire da questa prova più forte di prima. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e pregare. Vogliamo chiudere i nostri occhi, concentrarci su Dio. Se vuoi, puoi alzare le tue mani in cielo con me, un segno di arresa. Vogliamo arrenderci alla tua presenza, Padre. Vogliamo ringraziarti per la tua parola efficace, potente. Vogliamo ringraziarti, Padre, perché tu sei il padre di Elia e di Eliseo. Padre, vogliamo ringraziarti perché tu sei il Dio dei miracoli di Elia e di Eliseo. Noi vogliamo ringraziarti perché tu sei il Dio della doppia porzione che Eliseo ha ottenuto per la sua fede, per la sua perseveranza, per il suo chiedere, per il suo guardare, fissare lo sguardo. E siamo qui, Padre, per dirti che vogliamo quella doppia porzione nella nostra vita. Vogliamo un anno che non sia la fotocopia, il clone degli anni passati. Vogliamo un anno nel quale noi passiamo di gloria in gloria. Un anno nel quale noi sperimentiamo di più della Tua presenza, di più della Tua intimità. Un anno di consacrazione. Un anno dove vinciamo contro i demoni che si affacciano nella nostra vita, contro i vizi e contro le schiavitù del peccato. Un anno nel quale siamo più pieni di Te e abbondanti di Spirito Santo per ministrare, per guidare, per portare la luce a quanti sono nelle tenebre, per strappare anime dall'inferno, per portare la Tua gloria su questa terra, perché di questo noi siamo testimoni, che Tu sei glorioso e che ci rendi gloriosi. Grazie Gesù per quello che hai fatto 2000 anni fa su quella croce. Grazie perché l'hai fatto per me. Grazie perché l'hai fatto per ciascuno di noi. Grazie perché hai sofferto. Grazie perché ti sei arreso. Grazie perché ti sei fatto ubbidiente a Dio completamente. E lo hai fatto per noi, per darci libertà. Io voglio pregarti affinché chiunque in questa riunione, in questo incontro, non vive la tua libertà, possa essere libero nel nome di Gesù. Possa lasciare la schiavitù, l'oppressione, il dominio del maligno, di Satana, che viene per distruggere, ammazzare, derubarci, e possa abbracciare la vita in te, la resurrezione che c'è in te, la nuova nascita. Io prego per cuori che siano cambiati in questo incontro, e lo voglio pregare per l'intero anno, in tutti i nostri incontri. Voglio pregare per Mottola, per chiunque ancora non ha reso il suo cuore a te completamente. Io prego nel nome di Gesù affinché in questo anno e possibilmente in questo giorno loro possano arrendere a te i loro peccati, la loro vita in ribellione, la loro vita ignorando la tua presenza, e che possano abbracciare la nuova vita e un nuovo inizio con te. Voglio pregare per quanti di noi che siamo resi liberi in Cristo Gesù e abbiamo accesso alla presenza tua, possiamo vivere una porzione di intimità nuova. Oh Gesù, io prego per stanzette che si chiudono e per momenti e luoghi di intimità nelle nostre case dove cerchiamo la tua presenza, dove stiamo con te, dove piangiamo con te, dove ricerchiamo la tua parola, dove ricerchiamo la tua presenza. E non usciamo da quella stanza con troppa fretta, presi dalle cose di questo mondo, dalle cose della quotidianità. Io prego per un tempo e per un anno di intimità, di connessione. E prego che questa connessione possa portare a trasformazione. Prego che ciascuno di noi possa essere ancora più trasformato. Prego per più ministri tuoi nella tua Chiesa. Prego per nuovi evangelisti, dottori, pastori, profeti, apostoli nel tuo corpo, Gesù. Prego nel nome tuo santo, Gesù, affinché la trasformazione dei credenti possa portare più persone, più figli tuoi alla statura di essere ministri che ministrano ad altri. Ministri che hanno la capacità di non vivere più nella propria carnalità, ma vivere guidati dallo Spirito Santo, per permettere a coloro che loro guidano e che tu affidi di sperimentare il tuo amore, la tua pace, la tua presenza. Investici, Spirito Santo, di una porzione doppia nel nome di Cristo Gesù, lo prego. Investici di una porzione abbondante, traboccante. Investici affinché ci possa essere un incremento, uno sviluppo. Lo prego per tutti noi, lo prego per tutte le persone a Mottola, nel nome tuo santo, Gesù.